24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8:17 minuti di questo lunedì 11 maggio inizia la terza parte di 24 mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, Maria Latella, buongiorno, eccoci, ciao. Simone, e cominciamo la settimana con i due paesi che seguiamo attraverso i loro quotidiani ogni mattina. Ebbene, c'è molta delusione, si direbbe, dopo l'intervento di Boris Johnson ieri sera in TV, diciamo a reti unificate, e il Guardian appunto titola che la Gran Bretagna è confusa e divisa dopo le parole con le quali Boris Johnson ha previsto tre tappe per diciamo gradualmente ridurre il lockdown. La Gran Bretagna, lo ricordiamo, è un paese che sta affrontando un altissimo numero di perdite da Covid-19, ma anche in Francia le tensioni cominciano ad emergere, e Le Figaro pubblica oggi un sondaggio in cui confronta il punto di vista dei francesi e quello degli europei. Ebbene, i francesi sono i più scontenti in assoluto dell'azione assunta dal governo. Il 34% pensa appunto che non sia stata adeguata, contro il 51% degli europei. E alla domanda: pensate che di fronte all'epidemia il governo ha preso misure, diciamo, giuste per la gravità della situazione? Il 45% dei francesi risponde no, non le ha prese. Il 62% degli europei sì. Pensate che il governo abbia detto la verità ai suoi abitanti? Addirittura solo il 25% dei francesi pensa che il governo francese abbia detto la verità, contro il 46% degli europei. Grande fiducia nelle istituzioni, vedo. Grande fiducia nelle istituzioni. Allora, andremo su tre direttrici questa mattina. La prima è la liberazione di Silvia Romano. Parleremo, poi accenneremo alla situazione di Milano, come è andato questo fine settimana dopo tutte le polemiche su Naviglia, e poi il decreto, il cosiddetto decreto rilancio. Fu decreto aprile, lo faremo col vice ministro Misiani. Iniziamo però appunto dalla liberazione di Silvia Romano, che ovviamente dà una grande soddisfazione, un grande piacere per tutti noi riaverla in Italia dopo un anno e mezzo dal suo rapimento, e che però ha innescato una serie di polemiche a partire dal riscatto pagato e passando per la conversione all'Islam. Buongiorno a Pippo Civati, leader di Possibile, che si è speso in questi mesi costantemente per richiamare l'attenzione di tutti sulla vicenda di Silvia Romano e sulla sua sorte. Civati, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Maria, buongiorno Civati. Senta, vai. Sì, ho una curiosità rispetto a Civati e la prendo un po' lunga questa volta. Silvia Romano si è convertita all'Islam proprio come il protagonista di una serie americana molto amata, Homeland, e francamente io su questo non penso che nessuno di noi possa dire niente, perché nessuno di noi sa come avrebbe reagito in 18 mesi di cattività. Quindi penso che almeno su questo possiamo essere tutti d'accordo di lasciarla in pace con le sue convinzioni. Dopodiché, un'altra cosa su cui credo gli italiani dovrebbero essere tutti d'accordo è fare i complimenti al nostro servizio di intelligence, alla Farnesina, perché ancora una volta l'intelligence italiana si è dimostrata all'altezza della situazione. Una cosa su cui invece vorrei capire come la pensa Civati, al di là ovviamente del sostegno e della gioia che porta alla liberazione di Silvia Romano, è se chi l'ha mandata in Kenya da sola non abbia agito con un po' di leggerezza. Leggevo oggi sul Corriere della Sera un'intervista a un esperto appunto di cooperazione internazionale che da decenni si occupa di questo e dice: mai noi avremmo mandato uno dei nostri ragazzi da soli, mettendo a rischio la sua vita e anche, ricordiamolo, la vita degli uomini dell'intelligence che poi si devono adoperare per salvarli. Io me lo ricordo bene il sacrificio di Nicola Calipari, che salvò Giuliana Sgrena ed è morto per questo, e forse ce lo siamo dimenticato troppo presto. Dunque la domanda a Civati è: era giusto mandare una ragazza di 23 anni da sola, così allo sbaraglio? Sì, Beh, intanto apprezzo quanto stava dicendo, ovvero che ci deve essere un po' di riserbo e di rispetto per quello che Silvia Romano ha passato e sta passando. Come sa, purtroppo poi le cose possono anche cambiare, non sempre in meglio dopo i primi giorni dalla liberazione, no? Per chi è stato ostaggio così a lungo, quindi anche a me sorprende questa cania, possiamo chiamarla, di commenti, di certezze, poi, no? Come se tutti sapessero davvero come sta questa ragazza. Dopodiché, guardi, io posso solo dirle che la stessa famiglia di Silvia Romano ha in qualche modo rotto i rapporti con quella associazione, quella Onlus che aveva mandato, comunque che Silvia aveva scelto per il suo impegno in Africa, proprio perché qualcosa non deve avere funzionato. Anche su questo penso che fra qualche giorno, quando ci sarà modo di farlo con più tranquillità, sarà la stessa Silvia Romano a parlarne, anche per capire davvero qual è stata la dinamica di questa sua missione nel villaggio di Shakama, da cui poi è stata ai noi rapita, da cui tutta questa storia è partita. Certo è che tutto va fatto con grande attenzione per la sicurezza, perché abbiamo capito, non soltanto in questo caso, che ci sono delle agenzie vere e proprie di come dire, rapitori o di aspiranti tali che si muovono in alcune zone, soprattutto quelle di confine, perché come sappiamo si parla del Kenya, ma è la Somalia protagonista di questa storia, no? Confine con zone che invece sono occupate da forze, in questo caso terroristiche, o comunque ribelli rispetto all'ordine costituito, al governo dello Stato in cui ci si trova, appunto. Quindi è una materia molto complessa che avrebbe bisogno del tono che ha usato lei e non certo di quello che leggiamo ai noi sui social in queste ore. Era giusto pagare Civati? Ma l'Italia lo fa sempre, peraltro non se ne parla quasi mai o si tiene anche su questo un profilo molto basso. Io non ho nessun problema morale da questo punto di vista, non credo che ce ne debbano essere, a meno che non si voglia davvero cambiare la nostra impostazione di politica estera da sempre. Lo si sa, e anche questo però è un elemento che ci deve invitare alla prudenza, come si diceva prima. Maria. Prudenza e anche consapevolezza da parte dei cittadini, degli italiani, che buttarla appunto in caciara inseguendo pettegolezzi non serve proprio a nessuno, cioè A proposito di questo, Maria, continuano a scriverci da questa mattina: sposata, incinta, no, non è vera nessuna delle due cose, almeno per quel che ne sappiamo e per quel che ha detto lei, quindi non è sposata né incinta. Posso dire una cosa tra l'altro. Cioè, a me è sembrato liberatorio e genuino il suo primo commento, che è stato: vorrei mangiare una pizza. Ecco, se ci fossimo concentrati sul ritorno alla normalità, che peraltro è un'esigenza che sentiamo tutti noi per motivi più piccoli se vogliamo, ma per noi molto rilevanti, forse sarebbe stato un racconto meno malizioso e meno gossiparo, che non so poi che gusto ci sia. Se fosse capitato a noi, no, speriamo che non ci capiti mai una cosa del genere, insomma, forse non ci saremmo concentrati su questi aspetti così secondari. No, dopo 18 mesi passare anche sotto le forche caudine dei commenti più o meno cervellottici, ma poi comunque saranno un po' fatti suoi. Esatto. E questo dovrebbe essere come la linea di pensiero. Dopodiché sono invece fatti nostri, Civati, quello che può essere, come dire, quella che può essere una conseguenza di questa liberazione. E torno a sottolineare che mandare dei ragazzi senza sufficienti garanzie di sicurezza è un atto di enorme superficialità e leggerezza di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto. Ciò detto, noi abbiamo letto, sto a quello che si legge sui giornali, non ho, come dire, informazioni diverse, che Silvia Romano Aisha è stata liberata con la collaborazione dei servizi di intelligence somali e turchi, come succede sempre in questi casi. Ora però il punto è che questi servizi non fanno niente per niente. Ci si chiede se la Turchia, conterà su una forma di riconoscenza italiana, per esempio sulla Libia, per esempio sul fatto che la nostra azienda più importante nel settore petrolifero stava facendo delle ricerche in acque che poi sono state bloccate proprio dalla Turchia. Insomma, le chiedo se sa qualcosa dell'ipotesi di contropartita che la Turchia potrà chiedere per averci aiutato a liberare Silvia Romano. No, non lo so, ma la penso come lei. Credo che ovviamente ci sarà una richiesta, o ci sia stata, insomma, anche perché ovviamente noi commentiamo qualcosa che è già successo settimane e giorni fa, no? Cioè sappiamo per esempio che Silvia Romano era libera da qualche giorno e che evidentemente questo lavoro di trattativa o di confronto, di scambio con altri servizi segreti o con altre intelligence era iniziato a gennaio. Quindi è sicuramente entrata anche questa vicenda, come è già capitato tante volte, in uno scacchiere con tante altre pedine, e speriamo che non ci inquietino ecco, queste ulteriori pedine. Però appunto è un insegnamento per tante cose, come diceva lei, rispetto alla complessità sia dell'impegno, che ovviamente io saluto con grandissimo favore, del motivo per cui mi sono appassionato alla vicenda di Silvia Romano, e che non sopportavo più il fatto che a me dicessero di aiutarli a casa loro, poi se qualcuno li aiuta a casa loro sbaglia, no? Questo per spiegarmi velocemente. Quindi l'impegno io lo saluto con davvero con tutta la mia partecipazione, però deve essere fatto soprattutto se si è così giovani e tutto sommato inesperti, inevitabilmente con il rigore necessario, proprio perché poi si coinvolgono centinaia di persone e forse appunto addirittura gioca un ruolo lo Stato, la ragion di Stato, i rapporti con altri paesi. Quindi ci rendiamo conto di quanto sia importante. Ecco, mi piacerebbe sì. Che se ne parlasse così, anche perché così rimarrebbe un ulteriore insegnamento da questa vicenda e non certo appunto il dibattito superficiale un po' limitato. Grazie Pippo Civati, buona giornata. Salve. Buona giornata, grazie. Grazie. Buon lavoro. Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano e assessore anche alla sicurezza, tra l'altro. Buongiorno, Scavuzzo. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Com'è andato il fine settimana milanese, che tra l'altro era un fine, oggi piove, però era un fine settimana di bel tempo, gente in giro, i navigli, tutte queste polemiche, com'è stato il weekend? Beh, diciamo che, commentate prima la liberazione di Silvia, diciamo che questa notizia è stata fortemente commentata e quindi si sono un po' abbassate quelle polemiche collaterali che un po' nella settimana ci siamo trascinate. C'è stato anche mediaticamente un catalizzare l'attenzione. Questo ci ha permesso di essere un pochino più tranquilli nell'osservazione di quella che era la città. Abbiamo, come avevamo già detto, ovviamente potenziato i controlli, però devo dire che c'è stata complessivamente una buona risposta e anche forse un'abitudine da parte di noi tutti a vedere la città un po' più popolata. Abbiamo avuto qualche problema nei parchi, soprattutto quelli cintati, uno su tutti il Parco Sempione, perché essendoci uno spazio più ridotto ovviamente le persone sono comunque anche visivamente molto più vicine le une alle altre. Un po' di sanzioni per mascherine non portate, che ancora probabilmente è una cosa su cui bisogna insistere, però devo dire un fine settimana che temevamo e che invece penso abbiamo affrontato in una maniera positiva. Io non le nascondo che sono stata col fiato sospeso fino a ieri pomeriggio, quando poi è iniziato un po' a piovere, però devo dire che invece complessivamente la città ha risposto bene. Vice sindaco, Milano è la città che dà ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'aumento dei casi di Covid. E i giovani sono quelli che soprattutto sembrano insofferenti al rispetto delle regole. State pensando a delle misure straordinarie? Per esempio, nel fine settimana, fino a quando ancora sarà necessario rispettare le regole, usare l'esercito nei luoghi più sensibili? Allora, no, l'esercito direi di no, lo abbiamo già in attività, anzi si sono dati disponibili anche per tutta una serie di attività logistiche, e preferisco giustamente mettere a frutto le competenze anche dei nostri militari, laddove effettivamente serve una gestione, una movimentazione di materiali e quant'altro. No, invece stiamo promuovendo una serie di accordi anche con associazioni di volontariato, per esempio di personale in coscienza della polizia locale, le guardie ecologiche, i City Angels, le associazioni d'arma, perché il contesto permette anche una gestione con persone un pochino magari più anziane, che ci aiutano però in giro a richiamare al rispetto delle regole. Le useremo soprattutto nei parchi, abbiamo già concordato con i City Angels e con le GEV, ovviamente abbiamo fatto un percorso perché lo possano fare in sicurezza, perché ovviamente tutte queste attività vanno fatte in sicurezza anche per parte degli operatori, che siano volontari o lavoratori. Quindi potenziamo questa parte, diciamo, di attività, anche perché l'obiettivo dell'amministrazione non è quello di dar più multe, ma è quello di far rispettare di più le prescrizioni, quindi i richiami, che spesso sono quelli che sono sufficienti a fare in modo che uno capisca che, insomma, c'è una prescrizione, c'è un motivo serio da poi rispettare, e questa cosa non è così, come dire, eccezionale. Dall'altra parte, devo dire la verità che questo balletto sui numeri a noi ha messo molto in difficoltà, perché stanno aumentando, non stanno aumentando. Bah, sì, sono aumentati, cambia ogni giorno il numero dei tamponi sulla base dei quali stimiamo il numero dei contagiati. Devo dire che io, che di formazione precedente sono laureata in fisica, una raccolta dati così non l'ho mai vista. Quindi anche trarre delle conseguenze, trarre delle conclusioni da una raccolta dati fatta in questo modo è una bella responsabilità. Noi ovviamente utilizziamo un principio di precauzione e quindi comunque invitiamo al massimo rispetto, alla valutazione che comunque la possibilità che ci sia una recrudescenza, l'abbiamo visto in Germania, potrebbe esserci. Quindi, come dire, il nostro passo dopo passo rimane il mantra e il modo con cui stiamo affrontando ogni giornata. Dopodiché, insomma, con i ragazzi è più difficile, anche perché l'hanno subita molto, sanno che, come dire, c'è una maggiore esposizione per le persone più anziane, in qualche modo si sentono tutelati, senza considerare che però possono essere veicolo e portatori di contagio molto importanti. Abbiamo ancora un minuto, vice sindaco, quindi molto rapidamente. Oggi il sindaco Beppe Sala, in un'intervista al giornale, insomma, ci va relativamente duro con il governo, dicendo che è in ritardo tanto sui provvedimenti economici quanto, mi sembra di capire, anche sulla questione sanitaria. Cosa dice? Cosa ci dice? Beh, diciamo che noi siamo buoni, insomma, poi ogni tanto c'è la punta, no? Anche il nostro assessore al bilancio ogni tanto qualche stilettata pesante nei confronti del governo l'ha tirata, il nostro assessore alla mobilità sul tema dei trasferimenti per il TPL non se l'è andata a far dire. Ci sono una serie di questioni che non si possa tergiversare o fare le conseguenze. Il governo è lento, in sostanza, Scavuzzo? Beh, è lento e forse dovrebbe essere più incisivo, perché noi abbiamo poi le questioni giorno per giorno, il bilancio lo dobbiamo vedere adesso per poterlo utilizzare fra qualche mese. Grazie Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano. Grazie compagnia, vice sindaco. Pure i francesi pensano che il loro governo è lento, ho appena letto un sondaggio. Quindi, mi sa che è una questione un po' europea, Germania a parte, per carità. Anche la differenza di velocità fra le città e i governi. Le città sono spesso più rapide, ma sì, perché anche hanno la gente di fronte al naso, non lontana. Una pausa, ci ritroviamo subito dopo col vice ministro Misiani. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. E veniamo al fronte economico di Covid-19 in una giornata nella quale, ve lo dico, oggi il Consiglio dei Ministri con l'approvazione, speriamo, del famoso decreto rilancio, ne parliamo tra un attimo col vice ministro Antonio Misiani che è già in linea con noi. Nel frattempo però molti dettagli li trovate oggi sul Sole 24 Ore, molti dettagli sui provvedimenti che, insomma, dovrebbero entrare questa sera, è un lavorone del Sole. Misiani, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno, vice ministro. Senta, cominciamo subito dal MES, dalla sì, questione salva stati. Leggo dalla stampa che l'IRAP, l'imposta più detestata, si dice, dalle imprese, quella che versano alle regioni per finanziare la spesa sanitaria, quest'estate non dovrà essere versata. A finanziare quella spesa, cioè che va sempre nel filone delle spese sanitarie, si farà fronte con l'aumento del deficit e in autunno con un prestito del Fondo Salva Stati. Insomma, se prenderemo questo benedetto Fondo Salva Stati, questo servirà indirettamente anche alle imprese italiane che non pagheranno l'IRAP, almeno quest'estate. Me lo conferma, è così? Ma guardi, le confermo che c'è una riflessione in atto sul pagamento della rata IRAP di giugno, quanto al legame con il MES, con il meccanismo europeo di stabilità. Guardi, rimaniamo a quello che hanno detto il Presidente del Consiglio e il Ministro Gualtieri, dopo il dettaglio che è stato reso noto sul funzionamento della linea di credito speciale senza condizioni a 10 anni, c'è un notevole passo in avanti, abbiamo uno strumento in più nella cassetta degli attrezzi europea che deve essere valutato fino in fondo, poi è chiaro che l'ultima parola spetterà al Parlamento, come abbiamo sempre detto. Quindi sull'IRAP riflessione in corso, Misiani, non è deciso? Ma guardi, c'è una proposta che è stata resa pubblica ieri dal Ministro Gualtieri, quindi io penso che entrerà nella lista degli interventi del decreto che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri. Poi sul legame con il meccanismo europeo di stabilità, guardi, non credo che ci sia un legame così diretto, perché il decreto che verrà approvato, speriamo oggi, è finanziato con lo scostamento che è stato già chiesto e approvato dal Parlamento per 55 miliardi di euro, che non è connesso con l'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità. Maria. Una provocazione che mi costerà cara. Una delle problematiche che viene avanzata da chi teme il meccanismo europeo di stabilità è le condizioni che da qui a qualche tempo potrebbero spuntare. E si dice poi in qualche modo arriva la troica e costringerà gli italiani a delle misure che insomma faranno male. Ma queste misure, a parte il fatto che ora le condizioni non ci sono, l'hanno detto tutti, ma se poi succedesse che queste condizioni spuntassero, siamo proprio sicuri che qualcosa non faccia bene all'economia italiana, qualcosa di regole un po' più chiare, visto che spesso i parlamenti, non solo quello italiano, non si mettono d'accordo nell'assunzione di regole specifiche? Ma guardi, io credo che dobbiamo stare alle carte, a quello che è scritto nero su bianco e valutare con molto pragmatismo gli strumenti che l'Unione Europea ha messo via via sul tavolo. L'ultimo Eurogruppo ha detto parole chiare sulla linea di credito speciale del MES, che è cosa ben diversa dai meccanismi che sono stati studiati e varati a partire dal 2012. Il MES era stato immaginato e ha funzionato in questi anni come strumento di assistenza finanziaria a singoli stati in difficoltà con programmi di rientro, assistenza, sorveglianza e quant'altro. Questa linea di credito speciale legata alla pandemia è qualcosa di molto diverso, è aperta a tutti e senza condizioni né iniziali né successive, salvo che la finalizzazione dell'uso di queste risorse a sostegno dei costi diretti e indiretti di natura sanitaria. Quindi di per sé può essere uno strumento utile, poi lo ripeto, l'ultima parola spetterà al Parlamento italiano, con una valutazione, lo ripeto, molto pragmatica sugli strumenti. Dal nostro punto di vista la via maestra, lo strumento più importante è, per la potenza di fuoco che è stata immaginata, il Recovery Fund, il fondo per la ripresa o iniziativa per la ripresa, come è stato ribattezzato, che però deve essere costruito nei prossimi mesi, insomma. Poi è chiaro che dovremo valutare in relazione alle esigenze del nostro paese quali strumenti tra quelli che sono stati messi in campo sarà utile attivare. Ricordo che c'è anche il programma SURE per il finanziamento degli ammortizzatori sociali a livello europeo, il pacchetto da 200 miliardi della Banca Europea degli Investimenti per garantire liquidità alle piccole e medie imprese. Guardi, l'Unione Europea ha fatto uno sforzo enorme in queste settimane assumendo decisioni impensabili. Credo che sia questo il punto fondamentale da valorizzare. Senza lo scudo protettivo della Banca Centrale Europea e senza queste misure, oggi no, l'Italia farebbe molta sì, più fatica ad affrontare. Però, Vice Ministro, il punto è che noi non abbiamo sempre una macchina burocratica in grado di spenderli i soldi. Ricordo sempre che 800 milioni di euro di fondi europei dati alla scuola italiana negli ultimi anni non sono stati spesi. Quindi se noi riceviamo i fondi europei e poi non c'è la capacità di farli implementare, di usarli, perché non siamo capaci a fare i programmi, sarà un bel problema, oppure verranno spesi in maniera sbagliata, dati, come dire, agli amici degli amici, come pure è successo. No, guardi, questo lei solleva un problema assolutamente cruciale, che ha a che fare con il grado di efficienza della pubblica amministrazione italiana. Lo abbiamo sperimentato purtroppo con le luci e ombre anche in queste settimane drammatiche. Abbiamo per esempio costruito da zero un meccanismo di sostegno per il mondo del lavoro autonomo, che ha avuto difficoltà di partenza, ma poi alla fine è arrivato in pochi giorni a 3.700.000 lavoratori autonomi e professionisti, e verrà replicato in modo sostanzialmente automatico dal nuovo decreto. Ci sono difficoltà vere e inaccettabili sull'erogazione della cassa integrazione, perché noi abbiamo un enorme numero di lavoratori, imprese che hanno chiesto di accedere alla cassa integrazione per circa 8 milioni di lavoratori. Una parte di questi lavoratori però non ha ancora ricevuto nulla, e come ha annunciato il Presidente del Consiglio interverremo in questo decreto per semplificare e accelerare le procedure, in particolare per la cassa integrazione in deroga, che è gestita insieme alle regioni, che si sono mosse con velocità differenti regione per regione. Ci sono ritardi sicuramente da colmare, c'è una arretratezza di alcuni ambiti della pubblica amministrazione, che è un dato storico nel nostro paese. È chiaro che in una condizione di emergenza questo complica ulteriormente le cose. Credo però che in alcuni ambiti la risposta invece sia stata all'altezza, tenendo conto che anche la pubblica amministrazione ha lavorato a regime ridotto in condizioni difficili, come è capitato a milioni di persone in questo paese, tra smart working, uffici dimezzati e tutte le difficoltà che tante persone hanno conosciuto in queste settimane. Misiani, mi faccia fare una domanda appunto sui provvedimenti già varati, no? Il decreto liquidità, il tema della cassa integrazione che lei già sottolineava. Scaricare un po' tutto sulla pubblica amministrazione e non su come sono stati disegnati i meccanismi, ossia, la dico proprio brutale e gliela dico brutale, come avete scritto i provvedimenti, non è un po', insomma, il tema è anche quello, come sono stati scritti i provvedimenti, il tipo di attuazione. Pensi solamente a tutti i problemi che ha avuto la questione dei prestiti, no? Quelli fino ai 25.000 euro, e la stessa moratoria su mutui e prestiti, no? Con un decreto varato il 2, con una norma varata il 2 e poi entrata effettivamente in vigore il 26, cioè c'è anche questo di elemento. Guardi, io non mi sottraggo alle responsabilità che il governo deve assumersi rispetto a quanto è stato scritto nei provvedimenti, però le faccio un esempio per quanto riguarda proprio il provvedimento sui prestiti alle imprese garantiti fino al 100% dallo Stato. Noi abbiamo scritto un provvedimento sostanzialmente auto-applicativo con una procedura semplificata. Poi ci sono banche che erogano questi finanziamenti in 72 ore e altre invece che, per il modo in cui hanno organizzato i processi interni e le verifiche che chiedono alle imprese che si rivolgono a loro, ci mettono molto molto più tempo. È colpa del legislatore? È colpa della pubblica amministrazione? O ci sono anche responsabilità del sistema bancario, o almeno di una parte del sistema bancario, che sta rispondendo con inaccettabile lentezza? Ecco, credo che l'assunzione di responsabilità sia doverosa, ma sia doverosa da parte di tutti. Però Misiani, come lei sa, ci sono le banche hanno anche detto: ragazzi, qua ci sono delle norme per le quali addirittura, se noi concediamo quei prestiti, in alcuni casi rischiamo addirittura di finire nel penale per la mancanza di alcuni elementi normativi. Le norme sulla responsabilità penale sono previste in tutta Europa, compreso la Germania, che è indicato come un modello per quanto riguarda l'erogazione di nuova liquidità alle imprese. Lo Stato ha dato copertura fino al 100%, cioè azzerando il rischio di credito per le banche. Poi, in sede di conversione parlamentare del decreto liquidità, noi siamo disponibili a fare tutti i miglioramenti e gli interventi legislativi necessari. Però, lo ripeto, credo che ognuno si debba assumere le proprie responsabilità, perché se ci sono banche che erogano questi prestiti in pochi giorni, penso che forse allora il problema non sia tanto come è scritta la legge, ma ci sono problemi di organizzazione di pezzi del sistema bancario che non è efficiente allo stesso modo in modo omogeneo. Poi lo ripeto, lo dico assumendomi e assumendoci le responsabilità come governo di provvedimenti che non sempre sono scritti nel migliore dei modi, sono provvedimenti molto complessi, anche quello che andiamo ad approvare in queste ore è un provvedimento di enorme complessità, ma noi dobbiamo rispondere ad una moltitudine di sollecitazioni che ci vengono dai lavoratori, dalle imprese, da tanti ambiti della società italiana che hanno sofferto una situazione molto difficile. Che la risposta delle banche sia fondamentale. Lei giustamente ricordava che in Germania la responsabilità penale resta anche per i prestiti appunto decisi in queste settimane di Covid-19. Le chiedo una risposta secca: depenalizzare il reato di bancarotta in un paese come l'Italia sarebbe rischioso? Guardi, io credo che dobbiamo trovare un punto d'equilibrio, per quello che indicava il percorso della conversione parlamentare del decreto come la sede più adatta. È chiaro che viviamo una condizione eccezionale di enorme incertezza, riguarda le imprese ma riguarda anche le banche che sono chiamate ad erogare questi prestiti, pur con una garanzia statale che riduce di molto una serie di rischi. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio, un presidio di legalità a mio giudizio deve rimanere. Se poi in via eccezionale per un determinato periodo di tempo il Parlamento decidesse di intervenire sulla materia penale, io credo che il governo è disponibile a discutere questa cosa e a confrontarsi con i gruppi parlamentari o comunque a trovare soluzioni che migliorino e rendano più fluida l'erogazione di questi prestiti. Misiani, nel decreto in arrivo ci saranno dei soldi a fondo perduto. Forse si poteva pensare a un provvedimento di questo genere prima, secondo lei, invece che passare dal sistema bancario, proprio per evitare quello che ci siamo detti fino adesso? Ma guardi, l'intervento a fondo perduto è un intervento molto consistente. È un intervento che è legato alle perdite delle imprese, alla riduzione di fatturato, alla selettività di aiuti che devono essere dati innanzitutto a chi ne ha più bisogno, a chi ha maggiormente sofferto le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. E questo iniziamo a conoscerlo ora, chi ha sofferto di più, perché adesso abbiamo i dati dell'andamento del fatturato delle imprese nei mesi di marzo e aprile. Fare questo intervento 1 o 2 mesi fa avrebbe avuto poco senso, perché non avremmo avuto piena contezza dell'impatto dell'emergenza sanitaria settore per settore. Se si vuole essere selettivi, e noi vogliamo essere selettivi perché parliamo pur sempre di risorse pubbliche, di soldi dei contribuenti, è giusto utilizzare questi soldi nei momenti in cui si ha una prima conoscenza dell'impatto, che è molto differenziato settore per settore, dell'emergenza sanitaria. Chiaro. Senta, Vice Ministro, una domanda politica. Nei giorni scorsi molti quirinalisti hanno fatto capire che dopo il governo Conte non ci sarà un altro governo, ci potrebbero essere le elezioni. Il senso è, se si torna in azienda a lavorare, se si va al supermercato, se fosse proprio necessario si può anche tornare a votare, questa è la via maestra. C'è stato di conseguenza un incontro tra il Premier Conte e Italia Viva. Lei non pensa che in fondo i più interessati a far andare avanti il governo sono per l'appunto il Premier Conte, che rimane Presidente del Consiglio, mentre se si andasse alle elezioni non si sa quale possa essere il suo futuro, e Italia Viva, che i sondaggi danno sempre un po' ferme a percentuali molto modeste? Tutto sommato quell'incontro a Palazzo Chigi potrebbe essere il segnale di una navigazione più tranquilla per il governo o no? Ma guardi, io credo che bisogna stare ad una riflessione di buon senso. Noi siamo in una condizione di emergenza sanitaria, siamo appena entrati in una fase 2 che ha degli elementi di incertezza, i dati sanitari stanno migliorando, ma non possiamo dire di essere fuori da questa disastrosa pandemia. Io credo che immaginare una crisi di governo in questa condizione sarebbe una cosa assolutamente lunare, che nessuno capirebbe nel nostro paese. Lo dico nella consapevolezza che l'azione del governo sta producendo cose positive e altre meno, quindi non faccio il difensore a prescindere dell'attività di governo. Io credo però che in questa fase sia necessario invece la massima coesione nazionale sia necessario, ma esattamente come accade in tutti gli altri paesi europei, concentrarsi sulle cose da fare. E oggi le cose da fare sono aiutare le famiglie e le imprese italiane a superare questa emergenza. Poi magari quando saremo in una condizione di maggiore normalità possiamo riprendere tutte le riflessioni e le dinamiche politiche che ci hanno accompagnato fino a gennaio, ma oggi veramente ha poco senso fare quel tipo di ragionamento. Mi scusi Misiani, torno in chiusura, abbia pazienza, oggi è così, sul tema del fondo perduto, dei soldi a fondo perduto. Di alcuni settori si poteva intuire da subito, penso per esempio alla ristorazione, ai bar, a tutto questo mondo qua che adesso è quello che oggettivamente soffre di più, insieme a quello, non lo so, le palestre e via dicendo. Ecco, forse là si poteva pensare ad un intervento rapido e, su quel fronte. No, tutto è migliorabile, per l'amor di Dio. Noi comunque stiamo ragionando con interventi trasversali, validi per tutte le imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, con un unico elemento da tenere in considerazione, che è la riduzione di fatturato. Poi saranno previste delle misure specifiche per i settori che, come è noto, sono stati i più colpiti, penso al turismo e a tutto quello che ruota attorno al turismo. Però, ripeto, noi dobbiamo costruire i provvedimenti anche in ragione dell'evoluzione della situazione. Per esempio, la decisione di riaprire prima alcuni settori dell'economia e successivamente altri è una decisione che sta evolvendo di giorno in giorno, e noi speriamo di poter anticipare la riapertura di settori come bar e ristorante, la riapertura al pubblico, e questo naturalmente ha un riflesso economico. Lo dico perché è inevitabile che le decisioni che vengono via via assunte dal governo debbano tenere conto di questo, insomma, della progressiva riapertura delle attività economiche, di come sta evolvendo la situazione. Poi è chiaro, lo ripeto, che alcuni settori, proprio per la difficoltà che stanno vivendo, perché riapriranno più tardi degli altri e recupereranno più faticosamente, meritano di avere un sostegno specifico, ma questo sarà previsto dal decreto. Grazie Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia, per essere stato con noi. Grazie, buona giornata a voi. Buona giornata, buon lavoro. Cara Maria, ci sentiamo domani 8:20 come domani, sempre, Simone. Con tutti gli altri ascoltatori alle 6:30. Ciao.